Cantine di Franciacorta. Bentrovati, siamo a Borgonato di Cortefranca, visitiamo la cantina Fratelli Berlucchi, 70 ettari di vigneti per 400.000 bottiglie all'anno, circa 300.000 di Franciacorta. Azienda fondata nel 1967, la prima bollicina nell'87, fa da sempre una scelta particolare, produrre solo i cosiddetti millesimati. Ne parliamo con Tilli Rizzo Berlucchi. L'idea di fare sempre solo tutti i Franciacorta millesimati significa scegliere la lavorazione più lunga per ciascun prodotto, quindi è un vino che va al commercio dopo minimo 4 anni dalla raccolta dell'uva, dalla vendemmia. Significa forse la possibilità di dare a questo vino un maggior tempo di evoluzione e di completamento, quindi di proporsi al meglio nella sua migliore espressione. Alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.